Noi adesso siamo davanti allo stabile in via Fioravanti 12, mentre insomma viene eseguito da parte del Celere, tutte le forze dell'ordine, lo sgombero. La situazione è ridicola perché Emily Clancy ci aveva convocati in maniera straordinaria all'interno dei suoi uffici e con neanche 24 ore di preavviso, ed è successo l'altro ieri. Siamo andati, lei ovviamente ci aveva chiesto la fuoriuscita volontaria, poi quasi come ricompensa ci dava la possibilità di avere un tavolo sulla questione dei beni comuni. Noi le abbiamo detto quella sera che avremmo dovuto discuterne in assemblea, perché chiaramente lì, essendo stata una chiamata effettuata con neanche 24 ore di preavviso, chiaramente la delegazione non era in forza e quindi avremmo dovuto poi parlarne con tutta l'assemblea che quotidianamente attivamente ha preso parte nelle ultime settimane al progetto di bancarotta, un'assemblea che contava più di 100 persone ogni giovedì, quindi sappiamo benissimo essere una realtà che ha dimostrato la necessità degli spazi, una realtà evidentemente scomoda, se è stata sgomberata il giorno dopo senza neanche darci il tempo di riportare la proposta in assemblea, senza neanche darci il tempo di dire forte e chiaro il fatto che queste proposte sono vergognose, perché non danno neanche la possibilità di poter avviare un percorso che vada al di fuori delle logiche che porta avanti l'amministrazione comunale. E vediamo come appunto questo tavolo quindi sia stato soltanto un tavolo di facciata, perché siamo stati convocati l'altro ieri di sera e il tempo di far passare 24 ore ed è stato effettuato lo sgombero, quindi non era neanche una proposta, di fatto era un avvertimento sotto mentite spoglie per ripulirsi la coscienza, provando a porsi Emily Clancy come soggetto che propone mediazione. Peccato che questa mediazione non sia stata neanche discussa, non c'è stato neanche il tempo di discuterla, perché sapeva benissimo che lo spazio stava per essere sgomberato e ha dovuto fare il colpo di coda per venirci poi a dire che lei non è quella che sostiene gli sgomberi. Abbiamo visto come in pochi mesi dall'amministrazione Clancy Lepore si siano già avviati due sgomberi, sempre in Bolognina, il primo quello di via Zampieri 13, il secondo quello di via Fioravanti 12, che tra l'altro si passano davvero pochi metri di strada, il tutto davanti alle macerie dove adesso sorge lo Student Hotel. Insomma, quindi vediamo un quartiere che evidentemente ha preso una deriva ben chiara. Abbiamo visto come a pochissimi mesi dall'amministrazione, dalla nuova giunta comunale, le intenzioni evidentemente della Clancy di Lepore siano soltanto quelle di sgomberare degli spazi che vadano a mettere in contraddizione le pratiche che evidentemente non sono sufficienti da parte dell'amministrazione comunale. Quindi non può esserci stato un cortocircuito tra la questura e il comune? I cortocircuiti tra questura comune sono difficili e possono essere comprensibili nelle prime ore di apertura di uno spazio, dopo essere passato quasi un mese e soprattutto dopo aver chiamato, secondo me l'incontro di due giorni fa va assolutamente a legittimare il fatto che fosse ben chiaro il fatto che l'intenzione su questo spazio era quello dello sgombero. Quindi insomma siete lì in presidio adesso? Sì, adesso siamo in presidio, stiamo cercando di recuperare almeno parte dei materiali che avevamo all'interno dello spazio, perché comunque in un mese di esperienza sono stati portati un po' di materiali, un po' di cose, e adesso stiamo capendo anche un po' come muoversi. Sicuramente sarà chiamata un'assemblea straordinaria con tutti i simpatizzanti, gli attivisti curiosi rispetto alla questione di bancarotta. Stiamo ancora capendo appunto orari, tempi e dinamiche, però insomma stiamo cercando di organizzarci per fare in modo che questo sgombero non passi sotto silenzio. Tu dicevi appunto dell'incontro che avete avuto con Emily Clancy l'altro ieri. La vicenda di bancarotta non è una vicenda come tutte le altre, perché voi avevate vinto un bando per quello spazio lì, quindi non c'era più comunque sul tavolo la possibilità di vedersi riconosciuta la vostra presenza lì dentro a fronte del bando vinto? Esatto, sì, perché la questione è che di fatto lo spazio ai tempi è stato dato un ultimato in cui o si firmava alle condizioni che dichiarava il comune, quindi con dei pagamenti per lo stabile smisurati, con tutta una serie di condizioni a cui noi non volevamo scendere a ricatto, e a arrivata questa convocazione, una convocazione che purtroppo è stata persa, ma che comunque non cambiava la sostanza, nel senso che la sostanza è quella di un ultimatum di 10 giorni per firmare alle loro condizioni. Nel caso in cui questa cosa non fosse stata accolta, allora lo spazio veniva sottratto, che chiaramente è quello a cui si sono aggrappati anche all'ultimo incontro, ma nella sostanzialità delle cose non cambia assolutamente nulla, perché comunque noi erano delle condizioni a cui comunque a prescindere avevamo deciso di non scendere a patto, e delle condizioni che comunque inizialmente non erano state poste nella messa a bando dello spazio. Fatto che poi abbiamo vinto, le condizioni erano tutt'altre, tra l'altro la comunicazione era stata mandata a una persona che non faceva più parte poi del progetto, quindi in qualche modo è stata persa per quella. Quindi loro ci hanno detto che lo spazio rientrava in altri progetti perché appunto era stato formalmente ripreso da loro. Poi sicuramente ci sono sempre dei modi differenti per gestire le cose. A noi non è neanche arrivata la proposta di un altro spazio, banalmente. A noi è stato detto: se voi uscite possiamo pensare di avviare un tavolo sulla questione dei beni comuni, ma questo comunque non significa che vi diamo uno spazio.